Storielle. Storiacce di Raffaella Calandra. Norberto Bellini, la prima cosa che vorrei chiederle è: Emboscada, che cos'è? Emboscada è una prigione, attualmente è una prigione, chiamiamola così, di massima sicurezza. Era stata una prigione già nel 1800, diciamo, e è stata convertita dal dittatore Stroessner, Alfredo Stroessner, che ha diretto il Paraguay per 35 anni ininterrottamente. È stata convertita questa prigione in un campo di concentramento dove sono stati rinchiusi gli oppositori, tra virgolette, in quanto che qualsiasi persona che non fosse sulla linea della dittatura era un oppositore, era un sovversivo più che oppositore. Potremmo dire che è forse la garage Olimpo del Paraguay? Sì, possiamo senz'altro dire questo. Emboscada fu l'ultima stazione per centinaia di deportati e quella prigione inghiottì decine e decine di prigionieri, soprattutto contadini, che sparirono nel nulla. Ora, quasi 60 anni dopo, i loro nomi stanno riaffiorando e le loro storie si stanno delineando. E ci sono anche tracce di nostri connazionali negli elenchi della dittatura, ritrovati ultimamente dietro un muro nel sotterraneo di quello che era il Ministero dell'Interno sotto la dittatura di Stroessner, che prese il potere in Paraguay nel 1954. Sulle storie delle vittime di Emboscada e sulla drammatica battaglia dei contadini per la difesa della propria terra, un professore italiano ha ora scritto un libro, dopo avervi dedicato decenni della sua vita. Così questa è anche la sua storia, la storia di Norberto Bellini, un professore emigrato in Paraguay che quasi per caso arrivò alla guida di quegli agricoltori che sfidavano il regime e per questo ha subito minacce e ricevuto mandati d'arresto. È stato costretto a partire, ma poi anche aiutato a rientrare per riprendere il lavoro interrotto ai tempi di Emboscada e dare così voce con un libro testimonianza, Le lotte dei contadini contro la dittatura in Paraguay, edito dalla Infinito Edizioni. Questa gente è stata presa, imprigionata, torturata prima a San Juan Bautista, che era la capitale della regione. Lì venivano portati, venivano torturati, soprattutto con quello che laggiù chiamano il tejuruguay, che è un tipo di frusta con del piombo alla punta, e poi dopo di lì venivano portati alla capitale. Nella capitale c'erano tutte le torture, chiamiamole più moderne, tra virgolette, cioè le scosse elettriche, poi la piletta. La piletta era una specie di vasca da bagno dove veniva piena di acqua putrida, eccetera, dove venivano immersi quasi a soffocare queste persone, poi venivano tirate fuori e c'era sempre un medico lì per vedere fino a dove potevano arrivare, perché non gli morisse, e allora non potevano raccogliere notizie. E altri purtroppo sono stati catturati, amici miei, e sono tra i desaparecidos, perché si parla molto della realtà argentina dei desaparecidos, però purtroppo molto meno di quella del Paraguay, è vero. Paraguay. Ecco, quante potrebbero essere, secondo una stima, secondo le stime più accreditate, i desaparecidos del Paraguay? Noi abbiamo, bisogna calcolare che in quegli anni il Paraguay aveva più o meno 4 milioni di abitanti. I desaparecidos di cui noi abbiamo conoscenza sono più o meno 400. Allora, proporzionalmente è molto più alto il numero dei desaparecidos paraguayani con relazione alla popolazione che non quelli argentini. C'è qualcuno che si batte ancora per avere delle informazioni sui desaparecidos? Nel 2004 è stata costituita una commissione dal Parlamento per indagare appunto sulla violazione dei diritti umani, e come presidente di questa commissione è stato nominato un vescovo. Siamo molto amici e lavoriamo anche insieme nei progetti di riforma agraria, è appunto il vescovo di Misiones, che si chiama Mario Melanio Medina, è stato nominato, e in questa commissione ha incominciato a indagare sulla violazione dei diritti umani. Nel mese di agosto io ero in Paraguay, alla fine di agosto ha consegnato le conclusioni al nuovo presidente. È successo qualcosa in questi anni molto importante. È successo che il nuovo presidente della Repubblica del Paraguay, che ha vinto le elezioni nel mese di aprile, il 20 di aprile, è un vescovo, un ex vescovo che ha avuto il permesso, si è ritirato dalla diocesi, si chiama Fernando Lugo. Questo vescovo aveva detto: dobbiamo fare una manifestazione contro queste violazioni della Costituzione, e si è trovato di colpo, una cosa inconcepibile, più di 60.000 persone a questa manifestazione, e queste persone gli hanno detto: tu devi continuare, tu devi andare avanti perché abbiamo fiducia in te. E lui era vescovo in quel tempo di una zona molto povera nella regione di San Pedro, una zona molto povera del Paraguay. Questo vescovo allora ha accettato questa investitura popolare, anche scontrandosi con il Vaticano. Nel programma di questo nuovo presidente, di Lugo, c'è il programma della riforma agraria, il recupero delle terre che erano state date a questi seguaci di Stroessner, regalati come prezzo della pace, recupero di queste terre e assegnazione ai contadini. I luoghi simbolo degli anni delle dittature e delle torture, a cominciare appunto dalla prigione di Emboscada, che cosa è diventato? Noi abbiamo creato un museo, chiamiamolo così, dell'orrore. Poi c'è un altro fatto importante. Nell'anno 1992 è stato trovato quello che noi chiamiamo l'archivio del terrore, cioè mentre le altre dittature, Brasile, Argentina, eccetera, hanno fatto sparire gli archivi o non li hanno mai consegnati degli anni della dittatura, il Paraguay non è riuscito a far sparire gli archivi. Dov'era questo archivio? Dov'era nascosto? Si trovava vicino ad Asunción, alla capitale, era in un deposito della polizia. Attraverso, diciamo così, un poliziotto pentito, tra virgolette, con una mancia, diciamo così, si è riusciti a sapere dove erano conservati, e questi documenti sono stati recuperati. Lì sono venute fuori anche dei casi abbastanza tragici di persone, gente dell'Uruguay, dell'Argentina, catturati in Paraguay, consegnati ai loro paesi e spariti. Ecco, ma in questo archivio che cosa c'è? Che cosa avete trovato? Che cosa è stato trovato? Abbiamo trovato risultati degli interrogatori della polizia, cioè stenografati gli interrogatori dei prigionieri. Abbiamo trovato delle foto e dei documenti di persone scomparse di cui la polizia diceva che lei non ne sapeva niente, che erano andati via. Cioè abbiamo scoperto proprio il marcio che c'è stato della dittatura, e tra l'altro con la mia organizzazione abbiamo ottenuto un finanziamento per microfilmare questi documenti. Abbiamo microfilmato più o meno 250.000 pagine di documenti di questo archivio, che immagino adesso siano in esposizione al museo. No, in questo momento sono conservati in una cassaforte sotterranea del potere della Corte Suprema di Giustizia. Una copia me la son fatta mandare qui in Italia e l'ho mandata a Milano presso un'organizzazione dei diritti umani per vedere se appunto tra questi documenti appariva anche qualcuno di origine italiana e si potesse aprire un processo anche qui, ecco. Era quello che stavo per chiederle, se in questi elenchi ci fosse il nome di qualche italiano. A questo primo sguardo che avete potuto dare, ne sono stati trovati? Anche perché in Paraguay il 30% della popolazione ha un cognome italiano, è di origine italiana. Certo, cioè, la prima emigrazione. Sono emigrati della fine dell'Ottocento, principi del Novecento. Qui sono emigrati in piccoli gruppi. Per esempio, noi stiamo aiutando una scuola rurale che si chiama Repubblica d'Italia, spersa nella campagna, nella regione centrale, e lì ho trovato, perché ho detto perché avete messo questo nome? E ho scoperto che lì nel secolo scorso sono arrivati, al principio del secolo, della gente del Veneto, della Campania, della Sicilia, cioè le regioni più povere. Ma è possibile avere già un'idea di quanti italiani siano passati attraverso anche le torture della dittatura, o casomai se ci siano anche cognomi italiani tra i desaparecidos del Paraguay? Il 28 di agosto è stato consegnato al presidente Lugo il risultato del lavoro della commissione. Sono 8 volumi e stanno sulla base di quei volumi si sta vedendo appunto di trovare questi dati, non solo dei paraguayani ma anche di origine di altri paesi, ecco. Storielle, storiacce. Vuol dire piede peloso la parola che i contadini in Paraguay usano per indicare le spie. Piede peloso perché i loro passi non fanno rumore, ma i loro occhi vedono e riportano tutto. Ed erano tanti i delatori al servizio della dittatura, e anche i loro nomi, come quelli di molti desaparecidos, stanno ritornando ora, 60 anni dopo, mano a mano che si scoprono nuovi archivi degli anni del regime. Dopo un lungo esilio, ora in Paraguay ha ricominciato a tornare con regolarità Norberto Bellini, il professore italiano emigrato in Sud America che quasi per caso si ritrovò alla guida dei contadini che rivendicavano le terre confiscate durante la dittatura di Stroessner. Le conclusioni della commissione indicano anche i responsabili, immagino che potranno essere un punto di partenza anche per un futuro processo. C'è una qualche concreta possibilità di portare a processo dei sopravvissuti di quegli anni? Alcuni sono stati processati, ma pochi. I pesci grossi, come si suol dire, purtroppo sono scappati. In questi giorni, proprio una settimana fa, è stato scoperto in un sotterraneo di un edificio che era stato sede del Ministero degli Interni in tempo della dittatura, è stato scoperto una parete falsa, diciamo così, e anche lì un poliziotto pentito aveva detto: io quando ho fatto il mio servizio militare andavo in quel sotterraneo a portare da mangiare ai prigionieri. Allora un nuovo governatore, il governatore proprio della regione di Misiones, siccome ora in quell'edificio funziona il coordinamento dei governatori delle regioni, lui ha avuto questa soffiata, è andato a vedere, ha portato i muratori, hanno buttato giù la parete e hanno scoperto nuovi documenti che sono, tra l'altro, un'area molto umida, sono in cattivo stato. Il ministro degli interni di quel periodo è scappato, è rifugiato, addirittura ha ottenuto lo stato di rifugiato politico in Honduras, e è partito l'ordine per avere l'estradizione e poterlo processare in Paraguay. Purtroppo Stroessner è andato nell'esilio dorato in Brasile, dove è morto. Quando si è scoperto l'archivio del terrore, si è scoperto anche la lista delle spie della dittatura. Quanto era lunga questa lista? Quanti nomi c'erano? Ce ne sono parecchi, ora non saprei dirle il numero, ma diverse centinaia. E ora vari di queste persone si erano riciclate e alcune addirittura erano ancora operavano in strutture governative. In questo momento c'è tutto un processo in atto per prima di tutto toglierli dal lavoro che stanno facendo in strutture governative e in secondo luogo metterli sotto processo, ecco. In lingua guaraní queste spie si chiamavano Piragüe. Piragüe vuol dire piede peloso, cioè un piede che non fa rumore. Questo è come i contadini chiamavano queste spie, gli infiltrati, eccetera, eccetera. Lei torna con regolarità ancora in Paraguay? Sì, sì, no, io quando è caduta la dittatura avevo chiesto di tornare e loro mi hanno detto no, perché ormai tu hai degli agganci molto importanti in Europa, è meglio che rimani lì, perché se vieni qua perdiamo tutti questi coordinamenti che tu hai costruito. Per quello io poi sono rimasto, mi sono sposato, eccetera, però ogni 3 mesi io sono giù in Paraguay. Ora che la situazione politica è radicalmente cambiata in Paraguay, ora con l'avvento di Lugo, i progetti di riforma agraria sembrano davvero a portata di mano. Anche lui, Bellini, ora ci crede davvero e dopo gli anni delle lotte dure e delle minacce torna laggiù per esserci quando si porranno le basi di quel progetto a cui anche lui ha tanto lavorato, mentre continua a seguire i risvolti giudiziari di quelle torture di allora che potrebbero portare a dei processi anche in Italia, in nome dei nostri connazionali finiti nelle prigioni di Emboscada. Un altro problema che abbiamo affrontato, soprattutto io da questo punto di vista, è il problema culturale. In Paraguay si parlano 2 lingue, si parla lo spagnolo, che è la lingua portata dalla conquista, e il popolo parla il guaraní, cioè la lingua degli indios guaraní. Succedeva che il silenzio dei contadini non era dovuto al fatto che non avessero niente da dire, ma era dovuto al fatto che non sapevano esprimerlo in spagnolo. E allora abbiamo creato quelle che noi abbiamo chiamato scuole libere contadine, cioè delle scuole dove si insegnava, secondo il metodo di Paulo Freire, l'educación liberadora, l'educazione liberatrice, dove si insegnava in guaraní e i maestri erano dei giovani contadini che venivano formati e insegnavano in queste scuole. Naturalmente, cosa succedeva? Che i contadini vedevano che i loro figli non solo imparavano la matematica o a scrivere, ma soprattutto imparavano a pensare, e allora li tiravano via dalle scuole dello Stato e li mettevano in queste scuole libere contadine. E questo è stato uno dei motivi principali della repressione, in quanto che le leggi agrarie toglievano allo Stato la possibilità di fare un lavaggio cerebrale alle nuove generazioni. E nel programma di questo nuovo presidente di Lugo c'è il programma della riforma agraria, il recupero delle terre che erano state date a questi seguaci di Stroessner, regalati come prezzo della pace, recupero di queste terre e assegnazione ai contadini. Abbiamo scoperto che dal 1954 all'anno 2004, cioè anche dopo che il dittatore era caduto, sono state distribuite in Paraguay 12 milioni di ettari di terra, dei quali 8 milioni è terra illegalmente assegnata, che va recuperata. E questo è uno dei punti fondamentali di questa politica.